Benvenuti a tutti, nuova puntata di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2017-2018. Riprendiamo finalmente il campionato. Si tratta di un momento che in un modo o nell'altro rappresenta per il sottoscritto e sicuramente anche per molti che stanno ascoltando il tratto di unione tra l'infanzia e l'età adulta attualmente vissuta. Come infatti non ricordarsi l'attesa di quando si era bambini, per la quale la stagione si apriva con una partita settimanale in differita di sabato pomeriggio, a contrasto con la realtà odierna in cui è possibile vedere in differenti metodi e piattaforme la diretta dei primi match e potenzialmente tutti i restanti. Personalmente stavo però iniziando a sentire una mancanza piuttosto forte della Lega più bella del mondo, delle sue storie e degli innumerevoli protagonisti che animeranno inevitabilmente anche questa nata appena agli albori. Come saprete o quantomeno immaginerete, stiamo registrando reduci dalla Opening Night, per la quale abbiamo visto 4 tra le squadre più attese sfidarsi. Ma come tanti di voi avranno indubbiamente fatto, personalmente ho curiosato più del solito nelle sfide di pre-season delle settimane precedenti all'avvio di stagione. Chissà, forse sarà stato anche a causa della mancanza fisicamente percepita dalle notti in bianco per vedere una partita di pallacanestro, malgrado comunque la questione effettiva per la quale quest'anno la stagione inizia notevolmente in anticipo rispetto al solito, e questa è una delle sostanziali novità del campionato che è appena avviato. Questo è sicuramente comunque uno spunto di discussione, un cambiamento che sono curioso di vedere quanto potrà influire o meno sulla qualità di certe gare o di certi periodi solitamente di stanca tipici della stagione NBA. È indubbio infatti che il maggior numero di tempo nel quale spalmare le 82 partite stagionali per ogni squadra favorirà un numero inferiore di back-to-back, e cioè il giocare in due notti consecutive due gare senza giorni di riposo. E questo causerà a sua volta forse un numero minore di gare in cui le grandi squadre metteranno a riposo i titolari, facendo inevitabilmente calare l'interesse sulla partita stessa. Anche se, soprattutto quando la stagione risulterà addirittura di arrivo e la concentrazione sarà tutta rivolta verso i playoffs, back to back o meno, sarà molto probabile che l'atteggiamento di preservare le proprie stelle in vista della parte di stagione che conta prosegua invariato. Altra novità strutturalmente è quella che riguarda l'All-Stars Game, infatti varierà il metodo di elezione dei partecipanti alla partita delle stelle, per la quale, se abbiamo ben capito, il pubblico continuerà a votare i quintetti favoriti, ma di fatto i due giocatori più votati del lotto avranno l'onore e l'onere di formare la propria squadra delle stelle, facendo una sorta di draft di selezione tra i disponibili, un po' come si fa al campetto quando si gioca per divertirsi. In realtà questa idea è quasi imposta dal momento che la costa est continua progressivamente a svuotarsi di talento, con i giocatori più forti o interessanti che passano o sono passati in quest'estate alle squadre dell'ovest. Si tratta di un modo quindi per provare a creare competizione, sparpagliando le carte e sperando di rinnovare questo appuntamento di metà stagione che ha sempre un grande hype d'accompagnamento, ma che poi si rivela fondamentalmente una delusione dal punto di vista dello spettacolo e quindi della competizione. Chissà comunque che l'NBA non possa ulteriormente sorprenderci, cambiando anche la struttura di qualificazione playoffs prima di quanto possiamo aspettarcelo, anche perché, lo ripeto, è indubbio che ad ovest è molto più complesso riuscire a guadagnare uno degli 8 posti disponibili rispetto a quello che è la costa est e la qualità delle squadre che la compongono. Comunque, torniamo un attimo indietro e torniamo a dare due valutazioni sulla già detta pre-season. Alla vista degli highlights delle prime sfide, ammetto di essere fondamentalmente saltato sulla sedia più volte alla vista dei primi 8 assist di Milos Teodosic con la maglia dei Clippers, quelli del suo esordio assoluto. Ne vorrei parlare tantissimo di questo giocatore, perché ha una visione di gioco pazzesca, perché si tratta secondo me di un visionario come potenzialmente pochi ne abbiamo visti nella storia della Lega, per il quale mi auguro tantissimi minuti in campo ed una stagione da protagonista in quelli che sono i Clippers di una sostanziale rifondazione. Sarei anche stato disposto ad alzarmi alle 4:30 del mattino per poter vedere il suo esordio in regular season e raccontarvelo, ma purtroppo le due squadre di Los Angeles esordinando entrambe sfidandosi alla terza giornata, quindi al momento in cui ascolterete questa trasmissione voi saprete già il risultato e probabilmente avrete già visto quantomeno i momenti salienti, ma io in questo istante non posso dirvi niente perché ovviamente devono ancora giocare, quindi niente opinioni su Teodosic in questa puntata, ma per me si tratta di un osservato super speciale, per cui garantisco ne parleremo nelle prossime puntate a venire. Guardando più in generale alle prime sfide non ufficiali della stagione, una statistica che assolutamente non conta niente è quella relativa alle vittorie ed alle sconfitte. Bene, la regina della preseason in questa speciale quanto inutile categoria è stata Utah. I Jazz hanno infatti vinto 5 partite su 5, malgrado la partenza di Gordon Hayward approdato a Boston e la perdita, piuttosto pesante tra l'altro, di George Hill. Impressioni positive dal rookie Donovan Mitchell. Curiosità anche da parte mia per vedere se un altro dei miei giocatori potenzialmente favoriti, che è Ricky Rubio, saprà risollevare la sua carriera oppure confinarsi nell'oblio della mediocrità NBA, magari finendo per tornare nel vecchio continente nei prossimi anni. Insomma, ripeto che i risultati di preseason non contano nulla e ricordo che comunque ad Ovest la concorrenza per un posto playoffs è agguerritissima, però va considerato che questi Jazz, pur senza quello che era il principale terminale offensivo di squadra fino allo scorso anno, possono essere potenzialmente squadra fastidiosa. Molto interessanti, secondo il sottoscritto, sia i Minnesota Timberwolves, che abbiamo visto nella duplice sfida contro i Golden State Warriors in Cina, che i Philadelphia 76ers, con un rientrante Joel Embiid capace di ammaliare per concretezza statistica fin da subito nei pochissimi minuti della sua unica partita prestagionale. Guardando ai roster e dal potenziale di Minnesota e Philadelphia, viene ovviamente da pensare a quanto sarebbe bello vedere queste due squadre scontrarsi magari in finale tra 3 o 4 anni. A guardare il talento messo in campo, potrebbe essere cosa più che probabile rispetto a quanto possa venire in mente di primo impulso. È anche vero però che, malgrado i processi di ricostruzione avviati da tempo per entrambe, 4 anni di tempo nella NBA di oggi sono ben diversi rispetto a quella di 20 anni fa. Della serie, è difficile mantenere roster giovani, variegati e talentuosi per più di 3 anni senza vincere o quantomeno arrivarci vicino. Per quanto riguarda Philadelphia, il rinnovo contrattuale di Embiid va proprio in questa direzione. Si tratta infatti di un'effettiva scommessa, sia pensando a quanto ricco sia, potenzialmente sarebbe il centro più pagato di sempre, che considerando quanto poco abbia giocato in carriera fino ad oggi. Ricordiamolo, in 3 anni effettivi nella Lega ha giocato una manciata di partite lo scorso anno e basta. Anche per questo il contratto infatti si accompagna ad una serie di cavilli che non avrebbe senso neanche mettersi a ricercare e citare, ma che in un modo o nell'altro tutelano la società di Philadelphia. È importante valutare comunque l'atteggiamento della società stessa, che sta facendo del verbo ricostruire il mantra di una vita e che quindi non può permettersi di iniziare a perdere i pezzi pregiati, faticosamente messi insieme, accuditi in tempo di sfortuna e svezzati. Inoltre, le prime sensazioni suscitate dall'esordio prestagionale di Simmons sono sicuramente più che positive e la sensazione e l'impressione è che siamo di fronte ad un potenziale protagonista assoluto del decennio a venire nella Lega. Insomma, c'è tanta curiosità per questi Sixers che, tra l'altro, nella tristezza più o meno diffusa che è la Eastern Conference di quest'anno, potrebbero realmente ritornare subito ai playoffs, dove potrebbero essere mina vagante soprattutto al primo turno. Lo stesso destino che si augurano i Minnesota Timberwolves, che a loro volta però devono concretizzare l'amalgama di squadra e potenzialmente bruciare le tappe già da quest'anno. Towns, Wiggins e Butler è un tridente da sogno, ma non è destinato probabilmente a restare tale all'infinito. O le cose si muovono lasciando da subito, da ora, ben sperare, oppure a Minnesota c'è anche il rischio di veder vanificato prima dell'effettiva maturità del roster la squadra del futuro tanto desiderata e ricostruita. Anche perché, non dimentichiamocelo, oltre a Butler quest'estate sono arrivati giocatori di esperienza e qualità che possono essere utili fin da subito, come Ty Gibson, Jamal Crawford e Jeff Teague. Arriviamo a parlare della Opening Night, prima nottata in programma veramente di super lusso, soprattutto da un punto di vista di interesse, come detto, perché abbiamo visionato scontrarsi 4 squadre, 3 delle quali avevano cambiato veramente tanto o quantomeno giocatori decisivi acquisiti. Per quanto riguarda Golden State c'era molto interesse nel vedere se l'apparente aurea di imbattibilità che si sono garantiti lo scorso anno sarebbe stata confermata fin da subito o meno. C'era il dubbio LeBron James, fino alla palla 2 non era certo che il re scendesse in campo o meno, visto che ha sofferto di un piccolo infortunio che, come già detto, lo ha costretto a giocare una sola gara su 5 in preseason. Ovviamente però LeBron si presenta in campo per la palla 2, deciso a sfidare la Boston dell'ex compagno Kyrie Irving, che viene accolto dalla Quick and Loans Arena con fischi di disapprovazione ogni volta che tocca palla, ma dimostra, fin dalle prime azioni, che le chiavi dei Celtics le tiene già saldamente appese ai propri pantaloni, segnando tra l'altro i primi due punti della stagione. La partita si apre e viene però subito segnata, almeno per il primo tempo, dal dramma di Gordon Hayward. Si scontra in area con LeBron durante una tentata layup, ricade in maniera più che scomposta sulla gamba sinistra. La sua caviglia ne emerge spostata visibilmente di circa 180 gradi e questo avviene in un clima totalmente irreale, la Quick Loans Arena ammutolisce. I giocatori in campo ed in panchina si rendono subito conto della gravità dell'infortunio anche grazie all'effettiva visibilità della gravità stessa, reagendo in modo drammatico. James accorre subito ad incoraggiare l'avversario e lo farà anche andando a trovarlo negli spogliatoi prima che venga trasferito in ospedale per accertamenti. Si teme per Gordon Hayward quantomeno la stagione finita. Si tratta di caviglia e tibia rotte dopo appena 5 minuti, conseguenti grossi interrogativi su quella che sarà l'effettiva struttura dei Celtics nel proseguo della stagione, dopo aver perso uno dei giocatori più importanti sul quale era basata il futuro della squadra e le ambizioni della stessa. Boston subisce psicologicamente ed inevitabilmente la cosa, soccombendo contro i Cavs di un LeBron stellare e quadrato, che chiudono il primo tempo con un 54-38 di vantaggio. Nel terzo quarto però Boston rientra prepotentemente in partita. Lo fa grazie ad uno Smart trascinatore e ad un ottimo Jaylen Brown da 25 punti totali. In questa situazione impressiona positivamente anche il rookie Jason Tatum, che tira male ma chiude con 12 punti. Complice il consueto blackout di Cleveland, che si riprende solamente dopo qualche minuto dall'avvio dell'ultimo quarto, Boston riesce a passare in vantaggio alla fine della gara. Serve un James che di fatto riesce a vincerla con un colpo di reni, chiudendo la sua prestazione stellare, consueta seppur dichiaratamente in pessima forma, con 29 punti, 16 rimbalzi e 9 assist. La partita la può comunque impattare all'ultimo secondo Kyrie Irving. Il suo tiro del potenziale pareggio però non prende il ferro. L'ex di turno chiude con 22 punti, 10 assist e 3 recuperi. Boston dà comunque buoni segnali, considerando la gravità luttuosa dell'evento capitato ad Hayward, destinato ad influenzarne gerarchie di squadra e stagione appena nata. Anche se mai per un qualche miracolo l'ex giocatore di Utah fosse destinato a giocare e a tornare per i playoff, come qualcuno azzarda ad infortunio ancora caldo, bisogna anche vedere come potenzialmente potrebbe rientrare e reinserirsi, ma è ancora prestissimo per valutare tutto questo. Per quanto riguarda Cleveland, ci sono due facce diverse. Quella del primo tempo, in cui apparentemente tutto va bene, anche in conseguenza al già detto shock altrui. Un primo tempo in cui J.R. Smith dalla panchina porta tanto entusiasmo e concretezza insieme a Tristan Thompson. Quello in cui sia Wade che Rose, due osservati speciali perché nuovissimi arrivi, appaiono ben amalgamarsi con gli scarichi e gli spazi lasciati aperti da LeBron James. C'è però la seconda faccia, quella del secondo tempo, ed in particolare un terzo quarto dove la palla sembra non voler entrare mai nel canestro, dove i tiri da tre punti non entrano assolutamente, per una statistica destinata a riassumersi con il 5 su 22 totale. Buona impressione comunque generata da Joe Crowder ed anche dalla forma di un Rose comunque da 14 punti. Poi i tiri, a mio avviso per Kevin Love, tutto sommato comunque positivo, ma a tratti fuori dai giochi offensivi. Non buona serata al tiro per Dwayne Wade, chiude con 3 su 10 da campo. Cleveland è un cantiere aperto, c'è da far amalgamare bene questi giocatori e riuscire ad inserire potenzialmente progressivamente un Isaiah Thomas ancora destinato ad i-box e lontano dall'esordio. Tuttavia fa comunque impressione la lunghezza del roster e il potenziale dello stesso. Ovviamente tutti dovranno riuscire bene a gestirsi, a trovare i giusti equilibri, soprattutto dietro l'onnipotenza di LeBron James, che dovrà fungere da regista delle operazioni per garantire successo a Cleveland in questa stagione. Ovviamente però, come ripetiamo, in una Eastern Conference dove i valori sono piuttosto bassi, con una Boston inevitabilmente già in difficoltà vista la perdita di Hayward, Cleveland dovrebbe avere il tempo per poter sperimentare questa amalgama senza temere troppo per potersi garantire l'eventuale ritorno quantomeno alla finale di conference. Staremo a vedere. In ogni caso, chiaramente, squadra che cambia tanto all'avvio, difficile che tutto sia super perfetto. In ogni modo, per Cleveland, com'è come non è, la vittoria è arrivata, che si prendano, diciamo, il positivo e andiamo avanti a vedere come proseguirà la loro stagione. Brevemente anche due parole sulla seconda gara in nottata. alla ora con l'arena, una volta consegnati gli anelli tra sorrisi e scherzi, Golden State si scontra con una squadra vera, gli Houston Rockets, quelli di Mike D'Antoni e di James Harden, con un Chris Paul che chiude con 2 su 9 dal campo ed appena 4 punti, ma che mette insieme anche 11 assist, 8 rimbalzi e 2 recuperi, soprattutto non giocando per 4 minuti finali della gara, probabilmente per un piccolo fastidio o un lieve infortunio. La panchina di Houston genera comunque 58 punti totali con appena 3 giocatori impiegati. Per i Warriors al confronto ci sono comunque i 23 punti con 6 triple per uno Nick Young, proveniente proprio dal Pino, scatenatissimo all'esordio. Nel complesso i Warriors chiudono con 16 su 30 da 3 punti contro il 15 su 41 totale dei Rockets. L'ultimo quarto è dominato proprio dalla squadra che gioca fuori casa, però lo vince Houston per 34-20 con il sorpasso decisivo per la gara effettuato con il 2 su 2 dalla lunetta di PJ Tucker. Sono 20 con 6 rimbalzi i suoi punti anche per lui provenienti dalla panchina. Dall'altra parte, negli ultimi 10 secondi rimanenti, Stephen Curry sbaglia il tiro del sorpasso e di contro Kevin Durant riesce a chiudere segnando un buzzer beater che però viene valutato fuori tempo dopo essere stato visionato all'instant replay e quindi annullato. La stagione, quindi per Golden State, si apre con una sconfitta casalinga. Una sconfitta avvenuta comunque in una gara chiusa con oltre il 53% dal campo ed il 50% da dietro l'arco, con 34 assist di squadra e senza soccombere al rimbalzo, pur perdendo 17 palloni contro i 12 di Houston e commettendo quasi 10 falli in più degli avversari. Segno comunque che le due squadre si sono equivalse, senza che per i Warriors una serata storta offensivamente influenzasse il risultato finale. In ogni modo, già lo scorso anno a Golden State i Warriors avevano perso l'opening night contro San Antonio, quindi il pessimo risultato in avvio potrebbe anche risultare bene augurante in definitiva. I Warriors, capaci di creare parziali profondissimi con le consuete sfuriate che ne hanno caratterizzato le vittorie degli ultimi anni, aiutati in questi appunto da un Nick Young stellare ed imprevisto a livello di impatto. Draymond Green manca la tripla doppia per un punto, chiudendo con 13 assist e 11 rimbalzi oltre a 9 punti, ma la squadra butta via però un vantaggio di 17 punti. Bene in questo Houston, che dimostra di crederci sempre non perdendo mai il polso della partita, lottando per mantenersi in scia anche quando per Golden State il canestro sembra una vasca da bagno. In questo sono decisivi offensivamente sia un Eric Gordon con 24 punti che un Clint Capela che segna gran parte dei suoi 6 canestri dal campo nella fase decisiva della gara. Convincente prova per Harden con 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. La squadra è effettivamente nelle sue mani, almeno in questo inizio, nonostante l'arrivo di Chris Paul. Staremo a vedere come proseguirà la stagione. Per quanto riguarda questa trasmissione e questo format, l'idea è quella di strutturarlo in modo un attimino più snello, anche a livello di minutaggio, magari prediligendo l'analisi rispetto alla cronaca statistica. Vediamo se riusciremo a farlo nelle prossime puntate. Intanto vi rinnovo gli appuntamenti con NBA Week, tutti venerdì sera alle 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni con la stagione NBA 2017-2018.